feste cicale, odio il rumore dei cinquantini. Truccati fendono la tangenziale. Come te che fuggi dai tuoi guai, lo senti come fa rumore tutto questo magma di persone pronto a deruttare. Fa bene il vulcano a fumare. Procedo piano, con eleganza leggera, determinata e sicura, è più potente del pianto. Oggi è un incanto. Anche gli sguardi mi parlano, le luci mi parlano, il silenzio mi parla, i vicoli parlano, lo scorrere del fiume, il tramonto arancione mi parla. Il telefono non smette di tremare, e il cervello di domandare come va, come va, cosa fai. Tutto troppo, tutto troppo, tutto troppo. Troppo, tutto, troppo, tutto, troppo. Stai in piedi sopra un tram distratto. Brividi l'orchestra che si accorda. Hai un blocco emozionale in pancia. La prima volta non si scorda, sai. Il nervoso di certi clacson è come fare yoga sulla techno. Se ti rispondo male, fa bene la corrente a saltare. Procedo piano, con eleganza leggera, determinata e sicura, è più potente del pianto. Oggi è un incanto. Anche gli sguardi mi parlano, le luci mi parlano, il silenzio mi parla, i vicoli parlano, lo scorrere del fiume, il tramonto arancione mi parla. Il telefono non smette di tremare, e il mio cervello di tutto troppo, tutto troppo. Tutto troppo, tutto troppo, tutto troppo. Tutto troppo, tutto troppo, tutto troppo.